2. Un razzo d'oro partì dalle ombre del porto. Descrisse una parabola fulgida nel cielo stellato di primavera e ricadde nel mare, spegnendosi subito dopo il razzo segnale. Una fila di fuochi di Bengala si accese lungo il bordo della corazzata Ammiraglia Roma. Altri Bengala furono accesi sulla Castelfidardo, sul Regio Avviso Caridi, sulla nave trasporto Vedetta, sulla corazzata russa Svetlana. Tutte le navi mercantili, i brigantini, le barcacce, le paranze, tutte le Madonne Immacolate, le Divine Provvidenze, le Anna Maria Cacace, di cui è pieno il porto di Castellammare, si illuminarono di lampioncini colorati, tanto che tutto il mare ne rimase fantasticamente rischiarato. E il mastodonte di legno e di ferro, dipinto in rosso, senza alberatura, tozzo e pesante, l'Italia, varata la mattina, ebbe l'aria di un grosso e grasso idolo marittimo, silenzioso, tronfio, immobile, a cui tutti bruciassero ceri e incensi. Sulla corazzata Ammiraglia, cessato il breve fuoco di artificio, si ballava dappertutto. L'ammiraglio Gaston, grande e grosso, quasi colossale, con un torace spazioso e solido come la poppa di una corazzata, la sua piccola e simpatica signora, le due figliuole più grandi, quindicenni, vestite di tela azzurra, coi larghi colletti alla marinara che lasciavano vedere la bianchezza dei colli, con certi cappelloni di paglia buttati indietro sui capelli biondi, vere marinare, gentili e allegre, avevano invitata tutta l'aristocrazia di Napoli, di Castellammare, tutta la ufficialità di Marina, tutti i forestieri che già villeggiavano a Sorrento in quella fine di maggio. A piedi delle sue scalette di legno, a destra e a sinistra, era un continuo arrivare di barchette che portavano fuochi di Bengala a prua e a poppa. Era un ascendere timido ma continuo di signore e fanciulle che salivano con una certa paura, non priva di piacere, senza guardare sotto la voragine nera del mare, e se sospiravano di soddisfazione appena arrivate sul ponte. Lassù la novità, la bizzarria dello spettacolo, la sua rarità se le prendeva, una grande curiosità le afferrava, si udivano di qua e di là dei piccoli gridi di sorpresa e di piacere. Una fanfara era piazzata nel centro della nave attorno all'albero di maestro e attaccava i ballabili con una certa foga militare, con una furia di soldati che vanno all'assalto o di pirati all'arrembaggio. Qui giù, da una parte e dall'altra dell'albero di maestro, vi era qualche sedia, ma nessuno voleva sedervisi. Le ragazze e le maritate ballavano come diavoli e negli intervalli visitavano la nave. Le straniere, provvide, avevano portato delle sedie portatili, dei plian, in quanto ai giovanotti, essi preferivano fare del colore locale, accovacciarsi in tre, in quattro, sopra un mucchio di cordami, mettersi a cavalcioni sopra un piccolo cannone, e le donne, per darsi un'aria interessante, fingevano tutte di avere il passo incerto, il passo del marinaio, e domandavano ogni tanto a qualche ufficiale di marina, in grandi faccende per il ballo, «Si dovesse muovere l'ancora? È forte!» rispondeva quello ridendo. Sul ponte di poppa, vasto, tutto infiorato e imbandierato, si ballava disperatamente come se quello fosse l'ultimo giorno di ballo per tutte quelle donne e per tutti quei giovanotti. Eugenia d'Aragona, semplicemente vestita di lana bianca, con un cappello tutto piumato di bianco, con un paio di orecchini di brillanti grossi come noccioli, lusso permesso solo a una fanciulla viziata, ballava sempre, sempre, sempre, non fermandosi mai, girando come un arcolaio, passando da un cavaliere all'altro, senza respirare un momento, con gli occhi lucidi, le guance accese, divertendosi come una bimba. Invano il suo fidanzato Giulio Vargas, ricco quasi quanto lei, innamoratissimo, la pregava ogni tanto di riposarsi. Ella faceva una smorfia deliziosa, poi gli diceva con un tono carezzevole: oh Giulio, ti voglio bene assai se mi lasci ballare. Questo detto, con quel grande languore sentimentale che hanno la voce e gli occhi napoletani quando amano, languore a cui nessuno resiste. E se Giulio titubava, ella gli si infilava sotto braccio, lo portava via. Alla prima misura era in giro anche loro. Giulio subiva il fascino di quella giovinezza rumorosa. Ogni volta che Eugenia passava accanto a Eva Muscettola, le diceva gridando un poco: «Ma balla dunque, Vuzza, balla, non vedi me?» Eva al braccio del suo cavaliere, Inniqual Tan, un tenente di vascello, fratello della sua amica Chiarina, ballava abbastanza, ma più le piaceva di chiacchierare e di ridere con Innico, un giovanotto alto, magro e bruno che portava l'uniforme con una grande eleganza e che mescolava alla gaiezza naturale meridionale la punta di malinconia di coloro che hanno fatto dei lunghi viaggi e che sono destinati a ripartire. Così, da 2 mesi, lentamente, una dolcissima simpatia si era stabilita fra i due giovani, fatta più di intenzioni che di parole, consistenti più in certi minuti particolari sentimentali che nei grandi fatti del cuore. Egli certo sentiva la saldezza affettuosa dell'anima di Eva, malgrado il disordine e l'abbandono di una casa dove mancava il focolare domestico. Sentiva quel fluire di tenerezza che dal cuore della fanciulla se ne andava alle amiche, ai bimbi, ai poveri, ed ella in cuor suo ammirava quel giovanotto che si era voluto togliere dall'ambiente di vizio e di frivolezza dei suoi compagni e amici, sottostando a una lunga e dura carriera spesso lontana dai suoi cari. Come sono belle queste vostre corazzate, diceva ella a Innico, guardandolo con gli occhi emananti suavità. Oh, ma non sempre sono infiorate, imbandierate, non ci si balla la polca sopra come questa sera. Oh, che importa, mi piacciono tanto, mormorava ella, piegando il capo sotto il suo cappellino azzurro, un soffio di aria fermato da margherite. Dovreste vederla nella tempesta, la buona nave, com'è salda, come resiste, come non si piega. Oh, non mi parlate della tempesta, Innico, disse ella turbata. E perché? Non posso pensarci, non potrei pensarci quando facesse cattivo tempo, non dormirei mai. Beh, allora bisognerebbe imbarcarsi con chi si vuol bene. Perché no? La legge non vuole. La legge? Balla dunque, Eva, balla ora che Innico sta qua, gridò ridendo Eugenia e scuotendo i grossi orecchini di brillanti. Era un valzer. Molte signore si erano sedute stanche sui divani di velluto azzurro, ma le ragazze, indomite, non si fermavano. Elfrida Kapnist, audacemente vestita di broccato rosso, con le scarpette di raso scintillanti di perline d'acciaio, con un cappellino rosso piccolissimo, tutto lucido di perline, con quel vestito di un carattere così sfacciato, di cui molte erano scandolezzate, con quell'aria di zingarella sempre arruffata, con quegli occhioni selvaggi e dolci nello stesso tempo, si teneva attaccata al braccio di Willy Galeota, il giovanotto più alla moda della società napoletana. Willy Galeota le faceva la corte da 1 mese, strettissimamente, come si può fare a una donna maritata, seguendola dovunque, ballando tutta la sera con lei, parlandole sottovoce, non lasciando che nessuno si accostasse a lei. Ed ella accettava questa corte tranquillamente, come se nulla fosse, con la serenità delle ragazze straniere, senza pregiudizi. E come sempre, si dicevano di lei le più orrende e le più belle cose. Willy era il suo amante, Willy non poteva ottenere da lei una sola parola d'amore, Willy e lei erano stati incontrati in carrozza chiusa di notte a Posillipo, Willy non aveva ottenuto di poterle fare una visita nelle 2 stanzette poveramente mobiliate che la abitava, Willy la trattava come una ballerina, Willy l'avrebbe sposata. E la mostrava di non sapere, di non udire tutto questo fremito di attacchi e di difese egualmente esagerati. E ballava il valzer mollemente, guardando negli occhi il suo cavaliere con una seduzione muta e sicura. Per un momento Giulia Capece si era indispettita contro Elfrida. Willy Galeota era il primo fra gli sposabili sulla lista di Giulia, ma quando Giulia vide intorno a sé il principe di Sirmio, il ricchissimo patrizio romano, magnate di Ungheria, Giorgio dei Neri, il fiorentino ricchissimo, il conte di Detmold, primo segretario dell'ambasciata germanica e altri minori, si consolò. La sua corte era al completo, tutte gliela invidiavano. E la ballava, chiacchierava, rideva, prendeva delle granite, bellissima nel suo vestito di Worth, portando 7 fili di perle al collo. Mentre sua madre la guardava da lontano, sorridendole con gli occhi umidi di gioia, vedendola così bella e così circondata. Maria Gullì Pausania, la bellezza classica dal puro profilo siracusano, sapendo bene che il ballo conviene più alle bellezze irregolari, non ballava, passeggiava fra le coppie, facendo ondeggiare armoniosamente il suo vestito di seta nera, semplice semplice, somigliando un poco a Minerva sotto il cappellino di paglia nera, su cui aveva messo delle rose di maggio fresche. Peppino San Nicandro le dava braccio, unendo alla sua fisionomia di imbecille un'espressione di beatitudine. Lo sciocco soddisfatto che non lasciava la sua mazzettina di balena era in carattere, la mazzettina di balena, per un ballo a bordo. Egli aveva trovato questa insulsaggine piena di spirito e la ripeteva a tutti, contentone, raccogliendo i sorrisi di approvazione di Maria. Più tardi aveva inventato di domandare ai suoi amici che si preparavano per le corse questa scioccheria. «Con quante bestie vai alle corse tu?» Maria rideva quietamente, lusingando la vanità di quel cretinello, e parlava poco fra loro. Egli non le diceva quasi nulla, nella dolcezza del suo ebetismo, ma era tutto felice di portare in giro una delle più belle ragazze di Napoli. Ella non parlava, col suo contegno di idea riflessiva e sagace. A un tratto la musica tacque, le coppie si misero in giro per il passeggio, dei vassoi di gelati furono portati attorno, un chiacchiericcio femminile salì dal ponte di Prora sino al cielo. Giù nell'appartamento dell'ammiraglio, intorno alle tavole del buffet, era un gran viavai di signore e di ufficiali, un tinnire di bicchieri, un crocchiare di dentini e un urtarsi di coppie. Le due ragazze Gaston, coi cappelloni alla marinaia buttati indietro sulle treccione bionde tutte rose e tutte ridenti, portavano le loro amiche al buffet, poi avevano finito per installarvisi con le due San Nicandro, vestite ambedue di rosa, che mangiavano con la golosità delle adolescenti. Prima del salmone alla maionese, poi un gelato di crema, poi una fetta di pasticcio di caccia, poi della gelatina dolce. Insieme con loro Anna Doria si sfogava a mangiare, non trovando nessuno che la invitasse a ballare, dotata di quell'enorme appetito delle zitelle nervose. E ci si era venuta ad aggiungere Eugenia d'Aragona che moriva di fame, diceva lei, e avrebbe volentieri mangiato un piatto di vermicelli al pomodoro. E tutte le donne, maritate e fanciulle, capitando in quei saloni di legno lucidissimo dai divani di juta, molli, larghi e profondi dalle maniglie di ottone che sembravano di oro, provavano un grande senso di benessere e sospiravano quasi, invidiando gli ufficiali che davano loro il braccio, per i bei viaggi che facevano, prese dall'amore dei paesi lontani, mentre gli ufficiali, ridendo, sorridendo, bruni, simpatici, si prestavano a queste visioni marine e sentimentali delle signore, nascondendo loro i fastidi, le volgarità, le lunghe noie della vita marinaia. Chiarina Altan, a cui poco piaceva il ballo, osservatrice arguta, si era seduta sopra un divano nel buffet e guardava quelli che mangiavano, interessata, ammirando l'inesauribile appetito delle due sorelline San Nicandro che mangiavano delle castagne giulebate e bevevano del consomè, tutte colorite e felici. L'appetito rabbioso di Anna Doria, a cui sua madre faceva far dimagro 3 volte la settimana, e la grossa fame popolana di Eugenia, a cui Giulio Vargas porgeva da mangiare, come a una bimba, ridendo e scherzando. Poi, quando vide entrare nel buffet Tecla Brancaccio, sola sola, vestita di drappo azzurro, con le maniche e il goletto ricamato d'oro, con i capelli arricciati e la divisa sulla tempia, come un giovane ufficiale, le disse: «Prendiamo un gelato insieme, Tecla? Vieni a vedere come mangiano queste amiche nostre?» «Cerco Carlo», disse quella, aguzzando i freddi occhi di metallo. «Non vi è qui?» le rispose Chiarina. «Allora vado altrove». «No, no, cara, non cercarlo», fece l'altra trattenendola. «È con lei, ne è vero? Dove? Ci vado subito». «Oh, Tecla, lascia stare. Perché correre dietro a uno che non può sposarti?» «Così», fece quella, levando le spalle. «Me ne vado, Chiarina, li cerco». «Allora vengo con te». E si alzò, vedendo che non vi era mezzo di dissuaderla. Tenendosi a braccetto, mentre Chiarina cercava di farle una predica, traversarono tutta la lunghezza della corazzata, dal ponte di Prora al ponte di Poppa, ma si tenevano lungo il bordo perché si ballavano 2 quadriglie fra l'albero di maestro e il ponticello del comando. Qualche coppia amorosa, appoggiata al parapetto, guardava il mare, le stelle, discorrendo pianamente. Qualche essere solitario vi si appoggiava, guardando lontano, giusto, cercando Carlo Mottola e donna Maria di Miradua. Le due ragazze non videro Olga Bariatine che si affacciava al parapetto, guardando verso Castellammare. La biondina russa aspettava da 2 ore Massimo Down, il suo fidanzato, che le aveva promesso di venire presto per ballare con lei. E con la sua aria di uomo strano se n'era andato via dalla spiaggia con Luigi Muscettola, il fratello di Eva, con Ludovico Torremuzza, il siciliano schermitore, e due o tre altri. E non era più venuto. Ella non aveva voglia né di ridere né di ballare, era inquieta e nervosa. Non si sapeva togliere dalla ringhiera guardando sempre verso Castellammare, scrutando tutte le barchette che si appressavano alla Roma. Agitata da un sospetto solo, l'infedeltà, non immaginando mai che cosa facessero da 2 ore quei giovanotti in una stanza di albergo, intorno a un tavolino, giocando smorti nella loro passione. Tecla e Chiarina non trovavano in nessun posto Carlo Mottola e Donna Maria di Miradua. Salirono sul ponte di Prora. Ivi non si ballava, la luce era più mite, le tende che lo coprivano si muovevano a un principio di brezza notturna. Appoggiata alla ringhiera come a un balcone, voltando le spalle alla gente, Felicetta Filomarino e Giovannella Sersale piegavano le teste nell'ombra, guardando la fosforescenza del mare. E dal piccolo movimento nervoso delle spalle di Giovannella, da certi sussulti, dalla curva del collo, si intendeva che ella singhiozzava, mentre Felicetta Filomarino accanto a lei stava immobile, non osando confidare il suo segreto neppure alle stelle del cielo e alle onde del mare. Tecla e Chiarina si fermarono presso Angiolina Cantelmo e la stava ritta presso l'albero inchinato di Prora a cui si attacca la bandiera, tutta avvolta nelle pieghe bianche di uno sciallo di crespo e appoggiata la mano all'albero. Ficcava gli occhioni azzurri per l'oscurità, come se volesse viaggiare con la corazzata per i mari orientali, ricercando il piccolo yacht dove gli fuggiva. E malgrado il vestito bianco, sembrava più magra, più alta, più trasparente che mai, come se una fiaccola fosse stata accesa in un vaso di porcellana. «Non balli, Angela?» le domandò Chiarina. «No, balla Maria, la sua poppa», fece lei, tendendo la mano sottile e lunga. «Hai visto Carlo Mottola e Donna Maria di Miradua?» domandò Tecla, che andava sempre diritto al suo scopo senza esitare, senza vergognarsi. «Erano qui poc'anzi, sono andati via. Buonasera, Angela. Buonasera, Tecla». E la snella creatura si voltò di nuovo a guardare il mare, sognando, chiedendosi forse quale seduzione d'isola orientale trattenesse il suo fuggitivo. Chiarina e Tecla ridiscesero la scaletta. Un gran movimento era a bordo. L'ammiraglio aveva permesso che si visitassero la stanza da pranzo, le camerette degli ufficiali, la stiva, il camerotto della macchina, per chi sapeva resistere a quella temperatura calda, sotto quelle volte basse. Talché era un accalcarsi alle scalette, uno sparire consecutivo di uomini e di donne come inghiottite dalla stiva, un comparire di teste dall'altra parte, un grido di meraviglia, uno strillio femminile di timore, mezzo vero, mezzo simulato. Eva Muscettola era ricomparsa al braccio di Innico Altan, il quale le aveva mostrato la sua cameretta con la finestrella dove una rosa fioriva. E la rosa era sul petto di Eva, che pensava. Eugenia, d'Aragona, presa da un furioso capriccio, supplicava Giulio Vargas che le regalasse una corazzata. La voleva per forza. Se ne voleva andare per mare, non voleva più stare nelle case di pietra. Giulio gliela prometteva una nave per quando si sarebbero sposati. E finalmente Tecla Brancaccio e Chiarina Altan trovarono Carlo Mottola e Donna Maria Miradua nella cameretta del cannone di Prora. Ivi, l'ammiraglio, con la sua larga faccia rasa sulla bocca e sul mento, con le fedine brizzolate, appoggiando una mano sulla enorme culatta nera, spiegava il meccanismo del colpo a 4 o 5 signore che ascoltavano profondamente sorprese. I due amanti, Donna Maria di Miradua, una spagnola bionda, ardente, languida e appassionata, vestita di seta bianca, tutta coperta di gioie, dal cappellino alle scarpette, e Carlo Mottola, un giovanotto snello e bruno dalla pura bellezza italica, mescolata a una intonazione di colore e di linee orientali, si tenevano per mano, sentendo la spiegazione del cannone, e senza turbarsi, Tecla Brancaccio si appressò a loro. Sorrise a Donna Maria, diede la mano a Carlo Mottola dicendogli: «Oh Carlo, vi cercavo, non dovevamo ballare insieme il valzer?» «Naturalmente possiamo ballare insieme una quadriglia. Finiamo di sentire questa spiegazione, volete?» E tutti e quattro, Carlo, Maria, Chiarina e Tecla, rimasero in gruppo ascoltando, per nulla imbarazzati, abituati dalla loro posizione a sorridere in mezzo al dramma. L'ammiraglio aveva preso un obice e lo sollevava, lo mostrava alle signore dicendo loro di provarne il peso. Esse si provavano, ridendo, non riuscendovi. Donna Maria di Miraduaci rinunziò con un attuccio adorabile, ma Tecla, tendendo un po' le braccia, stringendo le labbra con una ruga che le tagliava la fronte come una cicatrice, sollevò l'obice. «Siete molto forte, Tecla», mormorò Donna Maria. «Molto forte», rispose costei quietamente, raggiustandosi i polsini. E fu tutto il segno della grande lotta appassionata che ferveva in fondo a quelle tre anime. Ma uscendo dalla cameretta del cannone, una viva luce ferì il gruppo. Dalla riva di Castellammare, dal terrazzo dello Stabia Hall, una lampada elettrica dirigeva il suo grande raggio bianco sulla corazzata Roma e coglieva la grossa nave di fianco, illuminandone fantasticamente ora un lato, ora un altro, secondo il capriccio saltellante di colui che dirigeva la lampada. Dapprima la candida luce si era posata sul castello di Prora, dove l'alta, snella, quasi fantomatica figura di Angiolina Cantelmo era apparsa, idealmente trasfigurata in quella chiarità. Poi era saltata sul ponte, dove si ballava una gran quadriglia, e nel suo raggio, nel circolo processionale del moulinet femminile, comparivano leggiadrissime le due sorelline San Nicandro. Dagli occhioni imbambolati nella luce, le due sorelle Gaston, i cui capelli biondi parevano un ruscello d'oro, Maria Gullì Pausania, dal profilo saggio e puro di Minerva, dall'incesso regale, Giulia Capece, che la bianchissima luce circondava di un'aureola annivale, e dietro, sempre in tondo, la fila dei bei volti muliebri, sorpresi, lusingati da quella luce. Da capo, il raggio scialbo e chiarissimo era si posato sul castello di Prora, inondando di luce le due testine curve di Giovannella Sersale e di Felicetta Filomarino. E Giovannella, nel pallore del suo volto emaciato, pareva quasi spettrale. Felicetta pareva quasi abbarbagliata, circonfusa di candore, entrambe corrose dallo stesso male. Come la luce si muoveva, era un gridio confuso e allegro di sorpresa, un rifugiarsi di persone timide negli angoli oscuri, un aggrupparsi di ragazze e di giovanotti, come per la posa di una fotografia. Dal castello di Prua la luce era giunta ai piedi del castello di Poppa. Sulla porta del buffet, Elfrida Capnist, ritta, insolente, tendeva un alto bicchiere di cristallo a Willy Galeota, che ci versava contemporaneamente, da due bottiglie, del Bordeaux e dello Champagne. Ed ella rideva, rideva, senza scomporsi, coi ricci nerissimi che li coprivano la fronte, e il pallido bruno viso di Zingarella provocatrice. Appoggiata al parapetto, sempre immobile, sempre sola, guardando la riva di Castellammare, Olga Bariatine aspettava Massimo Daun, ma non aveva più impresse sulla fisionomia l'ansietà, l'agitazione di chi aspetta, sperando e temendo. Invece vi si leggeva una stanchezza rassegnata, una pazienza dolorosa e muta, un rilassamento di tutte le linee, l'accasciamento di chi aspetta, senza sperare e senza temere. E la rossa figura appassionata e voluttuosa di Elfrida Capnist, nello splendore un po' livido della luce elettrica, acquistava una seduzione quasi diabolica, mentre la dolcissima faccia della fanciulla slava si illuminava morbidamente in un chiarore di melanconia, dove i biondi capelli e i fiori azzurri che vi erano sparsi e i grandi occhi aspettanti mestamente la facevano rassomigliare a una smorta Ofelia guardante il Baltico gelato sotto la luna, sospirante un pazzo principe Amleto. Di nuovo la luce fu proiettata su coloro che ballavano. Tecla Brancaccio aveva trascinato Carlo Mottola nella quadriglia. Essi ballavano senza parlarsi, ma stretti l'uno all'altro, la ragazza dominante, quasi il giovanotto, mentre Donna Maria di Miradoix, paziente, calma come colei che attende il suo momento, non ballava, li guardava con uno strano sorriso sulle labbra. Anche Tecla sorrideva. Alla luce si vedevano i dentini minuti e bianchissimi scintillare come quelli di una gattina feroce, mentre la bellissima bocca di Donna Maria sorrideva profondamente, intimamente, come colei che sa e che può solamente amando. Infine, la luce elettrica si posò per un pezzo sul castello di Poppa. Ivi, Eugenia di Aragona, trascinandosi dietro due o tre suonatori, Aveva formato un orchestrino e andava in giro per combinare una tarantella, la vera tarantella napoletana, e la sua febbre si era comunicata a 4 o 5 coppie. Il ballo popolare era a molle e amoroso, ora frettoloso e appassionato, era cominciato fra gli applausi, fra l'entusiasmo del pubblico. Eugenia d'Aragona si dava questa pazza gioia roteando come trottola, ballando alla perfezione con Giulio Vargas, ricordo di casa, diceva Anna Doria, la maligna vecchia zitella. E con una certa morbidezza, tutta gaia e semplice, Eva Muscettola ondeggiava nel chiaro lume della luce elettrica, ballando con Mario Capece, ma i suoi occhi e il suo spirito erano altrove. Là, dirimpetto, dove Innico Altan, che non sapeva ballare la tarantella, tutto serio parlava con donna Natalia Muscettola, la madre giovane di Eva, e in quel biancore di luce, in quella dolcezza di notte, su quel mare profumato, nel cuore di Eva era nata, fluiva una novella infinita, irrimediabile tenerezza. 3. Nel volgare salone di prima classe, stuccato di bianco, mobiliato dagli incomodi brutti divani di velluto rosso, illuminato dalle fiammelle a gas che il vento serotino autunnale, ingolfandosi per il corridoio dove vi è il caffè e si vendono i giornali, faceva vacillare. In questo grande, stupido e triste salone d'aspetto, le prime ad arrivare erano state Eva Muscettola e Chiarina Altan. Le accompagnava Miss Anderlì, l'istitutrice di Eva. Le due ragazze non si accompagnavano più da quando il matrimonio di Innico Altan con Eva era stato stabilito. Lo spirito fine e acuto di Chiarina si trovava bene con l'anima sensibile e simpatica di Eva. Esse si misero a passeggiare su e giù, chiuse nei loro paltoncini oscuri, con la veletta abbassata sugli occhi, come due viaggiatrici pazienti. Che sciocchezza il viaggio di nozze, diceva Chiarina, guardando qualche viaggiatore che posava il suo bagaglio sul grande tavolone oscuro e usciva di nuovo, ubbidendo alla nervosità di coloro che partono, che nulla vale a calmare. Ma no, cara Chiarella, è tutta una poesia. Bah, troppi alberghi, troppi camerieri indiscreti, troppe facce strane, un vagabondaggio inutile e noioso. Tu non lo faresti il viaggio di nozze? No, già, io non c'entro. Ah! Mi dimenticavo che non vuoi maritarti, cognatella monaca. Perché non vuoi maritarti? Di. Così. Ti farò maritare io, Chiarella, vedrai, vedrai. Tu ami il tuo prossimo come te stessa? Oh, fece l'altra arrossendo. E andarono incontro ad Anna Doria, che entrava tutta sola con le guance cariche del rossetto che ella stessa componeva, con una veletta bianca che cercava di attenuare quel cremisino. Quella sera aveva pensato di ingrandirsi gli occhi passandovi sotto un sughero bruciato e pareva così bizzarra, così brutta, che la stessa buona Eva non poté trattenere un sorriso. Mamma aveva a pranzo un monsignore e due abati, spiegò lei. Li ho lasciati a metà. Mamma era furiosa, al solito. L'ho lasciata verde. Eccomi qua per l'accompagnamento funebre. Sei più graziosa dell'usato, mormorò Chiarina ridendo. Sfido io. Non era meglio che morisse Olga anziché prendere questo mascalzone di Massimo? Le ragazze preferiscono sempre il maritarsi al morire, anche tu, Anna. Già, anch'io, naturalmente, ma non mi sono ancora innamorata di un commediografo. Chiarina continuò a sorridere, malgrado la malignità di Anna, ma non disse nulla. Perché ti è tanto antipatico, Massimo? Chiese Eva ad Anna. Ah, non me ne parlare. È un vizioso, freddo e ostinato. Figurati che ha passato tutta questa notte in una bisca a giocare. E stamane era in ritardo di un'ora per il matrimonio religioso. Olga ha pianto durante tutta la messa. Chissà se è vero della bisca, disse Eva. Caspita, vi era anche tuo fratello. Non credo, disse Eva impallidendo. Come non credi? Ha anche perduto 7-8 mila lire. Oh, aveva promesso di non giocare più. Mormorò Eva. Domandalo dunque a Tecla, con cui sono venuta e che si è fermata fuori a comprare un libro. Tecla era venuta anche lei con una giacchetta di lana nera foderata di Astrakhan, tutta alamari e cordoni, con un berretto di Astrakhan. Aveva comperato un romanzo di Balzac, l'Alberto Savary. Sì, hanno giocato tutta la notte, Carlo ha perduto 20.000 lire, disse sorridendo. E questo ti fa piacere? Domandò Chiarina mentre Eva chinava la fronte preoccupata. Immensamente. E perché? Quando Carlo sarà pieno di debiti, converrà bene che mi sposi per rimedio. Donna Maria non gli può dare quattrini, io sì. E ti contenti di essere sposata per rimedio? Mi amerà dopo, deve finire per amarmi, soggiunse Tecla con l'ostinazione profonda di chi vuole una sola cosa. La sala si andava popolando dei viaggiatori più frettolosi che arrivano un'ora prima della partenza. Il gruppo delle ragazze si fece da parte, le due San Nicandro insieme col papà e con Maria Gullipa Ausania, la futura cognata, entravano tenendosi a braccetto, misurando il passo, tanto carine sotto certi scuffiotti alsaziani di raso rosso. Abbiamo portato a Olga delle rose, disse la prima. Delle rose bianche perché ella le ama, soggiunse la seconda. E si guardarono tutte lusingate di avere tanto spirito. Poi la prima ricominciò. Abbiamo incontrato tua mamma in carrozza, Eva. Era con tuo fratello Innico, Chiarina, riprese la seconda. Un sorriso dubbio si delineò sulle labbra di Anna Doria. Chiarina e Tecla si guardarono per un minuto secondo, come interrogandosi, ma Eva sorrideva, tutta felice, tenendo d'occhio la porta per vedere se compariva sua madre e il suo fidanzato. Maria Gullipa Ausania chiacchierava sottovoce col principe di San Nicandro, un vecchio robusto, rosso nel volto, coi mustacchi bianchi, un suocero che già si lasciava prendere dalle grandi arie classiche della sua futura nuora. Udendo con quanta reverenza la parlava del blasone dei San Nicandro e degli antenati dei San Nicandro che avevano combattuto sotto Ruggero Normanno. Giulia Capece ed Eugenia d'Aragona erano entrate anche loro, Giulia scortata sempre dal suo sciame di giovanotti, di diplomatici, di baroni russi, continuando la sua faticosa professione di zitella nobile, bellissima e povera che cerca un marito ricco. Eugenia d'Aragona, con sua madre putativa, la bella principessa, bionda, fresca e sterile, e con Giulio Vargas, si dovevano sposare fra un anno. Ora, all'ardente popolana diventata principessa, era sorto nel cuore un amore fervido, la passione per Giulio Vargas. I due fidanzati portavano dappertutto il loro amore, tenendosi a braccetto o per mano, guardandosi negli occhi lungamente, parlandosi sottovoce, sorridendo con intenzione. Giulio portando la cravatta colore del vestito di Eugenia, Eugenia portando uno spillo da uomo al goletto. Adesso vedrete che specie di moccolo ci toccherà reggere, disse Anna Doria. Difatti, dopo aver abbracciato e baciato tutte le sue amiche, una dopo l'altra, con quella effusione chiassosa che le persone corrette le rimproverano, tenendosi stretto al seno un grosso fascio di giacinti bianchi, rosei, violetti, una rarità in autunno che ella aveva portato per Olga, Eugenia si andò a sedere in un cantuccio con Giulia, tutta beata, scambiando con lui ogni tanto una parola, crollando il capo con dolcezza, mentre Maria Gullipa Ausania la trovava più sartina che mai. Era uno scandalo amarsi così pubblicamente. Ora le ragazze, le signore, i giovanotti che venivano a salutare Olga Bariatine, che partiva per il suo viaggio di nozze, erano divisi in due o tre gruppi, chiacchierando, ridendo, bisbigliando indifferenti all'agitarsi dei viaggiatori che affluivano. Sottovoce. Per non farsi sentire Giulia Capece, Anna Doria narrava che Mademoiselle Charlotte, la sarta del Passage Verdot a Parigi, poverina, era fallita per colpa di Giulia. Le aveva fornito in 2 anni 100.000 lire di vestiti, non aveva mai potuto avere un centesimo. Aveva continuato a fornire vestiti sperando nel prossimo matrimonio di Giulia, ma invano. Matrimonio non se ne faceva e Charlotte, poverina, aveva sospeso i pagamenti. Ma Rocco Caracciolo non si decideva a sposare Giulia? Domandava Tecla ad Anna. No, no, Caracciolo aveva un legame altrove. Che cosa altrove? Chi altrove? Chiesero le 4 o 5 ragazze prese dalla curiosità. Una ballerina, la fiammante, non poteva staccarsene, era proprio un legame serio. E le ragazze, un po' chinando gli occhi, un po' arrossendo, si erano strette, raccolte, mosse dalla curiosità di quell'altro mondo che, esse non conoscevano, che non dovevano conoscere, ma di cui ogni tanto ritrovavano un eco nelle loro case, nelle conversazioni. Ma che? Ma che fiammante, disse Elfrida Capnist, sporgendo il capo bruno nel gruppo delle sue amiche. Voi non sapete niente. Annina Dori è inarretrato di notizie. Caracciolo si è liberato della fiammante, dandole 30.000 lire tutte d'un colpo per lei e per il bimbo. Quale bimbo? Chiese ingenuamente Eva. Ma un silenzio regnò. Tutte avevano abbassato gli occhi o si guardavano intorno come distratte. Decisamente Elfrida Capnist era troppo libera nei suoi discorsi, era intollerabile. E la cattiva impressione aumentava. Elfrida portava un vestitino miserabile, a scacchetti bianchi e neri, un abito da 40 lire e aveva alle orecchie due brillanti scintillanti, un valore di 3.000 franchi. «Che fa, Villi Galeota?» ebbe l'audacia di chiederle a Nina Doria. «Mi adora, al solito», rispose subito Elfrida. «E quando vi sposate?» insistette l'altra per vedere di coglierla in fallo. «Presto, presto, presto!» disse Elfrida, volgendole le spalle e andando a unirsi con Giulia Capece.